Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Giovanni Malagò, 54 anni, romano, imprenditore, dirigente sportivo, ex giocatore di calcio a 5, membro della giunta esecutiva del CONI dal 2000, organizzatore dei mondiali di nuoto del 2009, degli internazionali di tennis, degli europei di pallavolo, due figlie con l'attrice Lucrezia Lante della Rovere. Se gli dicono che il presidente del CONI conta più di un ministro, lui scherzando, ma non troppo, risponde: dipende da quale ministro. Presidente del CONI dal 19 febbraio del 2013, dice: sono presidente, ma non devo nulla a nessuno. Ecco, dottor Malagò, un miracolo in Italia. Una cosa quantomeno che era imprevista, soprattutto da parte di qualcun altro. Senta, ma il segreto per passare da presidente di un circo a presidente del CONI? Qual è il segreto? È il segreto di saper capitalizzare al meglio l'esperienza fatta in un circolo, che è un circolo molto speciale, molto importante, ma soprattutto che racchiude tutte le esperienze del mondo dello sport, essendo diventato, insomma, un club, grandi, una polisportiva. Grandi relazioni, un vero colpo da re di Roma. Molti la considerano un re di Roma. Senta, e non deve nulla neanche all'altro re di Roma, Gianni Letta? A Gianni Letta non devo nulla, se non riconoscere sempre un'amicizia che è nata ben prima di questa mia partita del CONI, fermo restando che sicuramente, questo lo sanno tutti, ha fatto il tifo per me. Senta, non so qual era il budget del Circo Danieli, ma adesso al CONI lei gestisce un fiume di denaro, 411 milioni da distribuire a 45 federazioni sportive. Un bel santo, ha paura di farsi male? Ma il budget del Circo Danieli, guardi, è importante, soprattutto sono, no, 18 anni che chiude inutile e siamo tutti autofinanziati senza un euro di contributo pubblico. Quindi stiamo tranquilli. Secondo me è più difficile per certi versi chiudere quel budget che non quest'altro. Ah. E comunque oltre le 45 federazioni ce ne sono anche altre 19, sono le discipline sportive associate, gli enti promozione, gli enti territoriali. Vabbè, insomma, voglio dire, ancora più possibilità di farsi male. Speriamo anche di trovare qualche ricavo aggiuntivo, che forse è quello che è la speranza magari con la mia nomina. Ricavi aggiuntivi non male. Dottor Malagò, senta, parliamo delle Olimpiadi. Dopo l'incontro con i sindaci di Roma e Milano, avete sciolto il nodo della candidatura italiana? No. Non ancora? No, perché non c'è fretta, abbiamo tempo fino a tutto il 2015 di fatto. Cioè, quanto tempo ci vorrà per sapere se è Roma o Milano? Ma potrebbe non essere nessuna delle due se non ci sono i requisiti, soprattutto. Ah, non essere l'Italia proprio. Diciamo che non è una cosa che ce l'ha imposta qualcheduno. Non è una, io per la prima sicura volta voglio arrivare a una candidatura veramente unitaria su tutto il territorio, compatibilmente logicamente con quello che sono le opinioni delle persone, e in questo senso ci stiamo adoperando. E che cosa potrebbe aspettarsi l'Italia dalle Olimpiadi, eventualmente? Ma guardi, secondo me moltissimo. L'esperienza di Londra recente è proprio la cartina, diciamo, perfetta a quale specchiarsi, in cui grande prestigio, immagine, soprattutto risultati economici e la possibilità di fare delle opere che altrimenti sarebbe più complicato realizzare. Difficile fare. Ecco, il governo Monti però era stato determinato nel no. Ha detto soldi sprecati. Ha sbagliato? Ma diciamo che quando è arrivato, non vorrei mancare rispetto con questo mio termine, è stato catapultato con ben altre priorità. Forse una persona arrivava dopo, insomma, il problema delle Olimpiadi. Soprattutto magari uno se non ha una genetica di particolare, quindi una sensibilità diversa anche nel mondo dello sport. Non gli dà il valore che potrebbe avere. Senta, ma l'incontro con Letta dell'altro giorno al CONI, avete parlato di Olimpiadi o no? Moltissimo, addirittura ne ha parlato lui, ha fatto un discorso. E lui è favorevole a molto farlo. Si è esposto. Quindi c'è stato una standing ovation, ma non solo per questo tema, col Consiglio nazionale. La prima volta che un primo ministro abbraccia, tocca così tanti temi che riguardano il nostro mondo, è piaciuto veramente molto. Senta, il CONI per tanti anni è stato un mondo immobile, dirigenti eterni, presidenti inamovibile. Capiterà anche con lei adesso che ha conquistato il potere? No, non capiterà, perché cerco di trasmettere una serie di messaggi, di indicazioni, di desideri, però teniamo sempre conto che io sono un funzionario pubblico, il CONI è un ente pubblico e soprattutto ci sono delle leggi dello Stato, chiedetemi tutto, ma non cancellare quelle, fermo restando che possiamo un po' adoperare per fare qualcosa di diverso. Sì, ma pensa di abbattere almeno il mondo dei privilegi oppure no? No, guardi, quello non è che penso, quello le garantisco Lo fa, che sì, al lo farà. 100%. Ecco, ma quali sono allora, Ce lo stiamo facendo. ma quali sono le abitudini più nefaste che ha trovato arrivando al CONI, le cose più incancrenite? Ma l'idea che lo sport è comunque inquadrata nell'ambito di uno steccato, di un recinto, di un perimetro, come se fosse, diciamo, un La ente cosa a pubblico normale, parte. un ente pubblico. Invece, secondo me, lo sport paradossalmente dovrebbe essere proprio, adesso non voglio dire, Il ma motore. Sì, il motore, ma soprattutto qualcosa di diverso, di fresco, di dinamico. È chiaro che se poi magari solo si inquadra nel contesto di certe attività pubbliche è più complicato. Senta, da dove comincia per il cambiamento? Mi dica una cosa, sicura. Comincio nel cercare di fare delle autoriforme Ecco, dalla ma base. senta, ma l'autoriforma, lei dice autoriforma, l'autoriforma è la prima volta che sarebbe la prima volta che un'istituzione così immobile, incancrenita, si autoriforma. Ma già è Difficile successo da noi, eh? crederci. Già è successo. Ieri in Consiglio nazionale un gruppo di federazioni che si chiamano discipline sportive associate, che ambiscono a diventare federazioni, ma non ne hanno ancora tutti i requisiti, sono 19, hanno fatto un codice di autoregolamentazione Vabbè, veramente importante. partiamo dalle cose più laterali. Ok. 8 mesi fa, quando lei è arrivato, sembrava arrivata la rivoluzione. Adesso parla di cose laterali, di moral suasion, insomma, passi felpati in qualche modo? No, guardi, No. no, semplicemente sono una persona concreta e quindi non mi va di vendere qualcosa Che che non è ho. stato, che non è Esatto. possibile fare. Quindi niente da rottamare? Guardi che forse non è molto informato. Io non ho detto che No, sono. no, No, può no, no, aspetti, darsi, questo ci tenga a ma se me dirlo. lo Forse dice. no, no, aspetti, mi faccia completare. Io ho detto subito che non ero un rivoluzionario, ma un innovatore sì, e su questo senso credo che tutti, soprattutto quelli che conoscono bene l'ambiente, lo riconoscono. Vabbè, insomma, non ho capito chi ha rottamato. Molte federazioni hanno presidenti che sono lì da 30 anni. A Sì. proposito, ecco, basta questo passo felpato, questa moral suasion per fare i cambiamenti radicali? Guardi, sta parlando con una persona che da poco è cambiata appunto la legge e che al massimo può sedere per 2 mandati, quindi 2 quadrienni olimpici nella carica di Vabbè, quindi presidente. lei 30 anni è È impossibile, impossibile. insomma, E invece ci va bene. sono i presidenti che hanno una legge che gli consente dopo 2 mandati di rimanere lì con una maggioranza qualificata che è quella del Vabbè, quindi insomma 55%. è un mondo Concludo, immobile. concludo, concludo. Quasi tutti i presidenti che stanno da molti anni sono, secondo me, tra i più bravi, però al tempo stesso sanno come la penso e anche qui mi serve una sponda da parte dell'esecutivo, Vabbè, perché è chiaro. insomma, passi Però lenti. no, però non è una priorità rispetto ad altri. Ok, senta, lei ha detto che l'altro re di Roma, Gianni Letta, non l'ha aiutato a diventare presidente, però è stata molto importante questa fase del paese. Perché? Perché mi sembra che dalla mattina alla sera ha dimostrato di saper mediare tra due anime che oggettivamente non Molto si mettono complicata. d'accordo. Senta, ma lei ha imparato qualcosa da lui? Che Sì. Il cosa? fatto di non aggredire sempre le situazioni, salvo nella volontà di cercare di risolvere, ma soprattutto cercare all'inizio di avere saggezza nel non voler uccidere l'avversario. Insomma, se le dicono che lei ha una flemma andreottiana nel prendere decisioni, la prende come un'offesa o è vero? O un complimento? No, non lo considero né un'offesa né un complimento, sinceramente Modo di non fare. mi riconosco, però Ah. una cosa che sicuramente è vera è che penso di avere buone relazioni con tanta gente. Senta, lei come si definirebbe in due parole? Un pragmatico. Senta, lei è stato anche un grande amico dell'avvocato Agnelli. Che ricordo ha? È un fuori classe, Ah. soprattutto nella vita, nelle amicizie. Ha imparato qualcosa da lui che le serve adesso? Il modo di scansionare in qualche modo anche le Più cose gravi, più più difficili. drammatiche, i destini più crudeli. L'ultima volta che l'ho visto nella sua stanza, io sapevo che non l'avrei più rivisto, lui sapeva che stava per andare in un altro mondo e non ha rinunciato alla battuta. Mi raccomando, stammi bene, piccolo Malagò. Io sono tutto eccetto che piccolo, Ah, ma ma questo. questo non c'è dubbio. Senta, ma che cosa non le piace sentir dire di se stesso a lei? E quando mi dicono, paradossalmente, quando mi dicono che vado troppo di fretta, che sono veloce, quello che secondo me è una qualità, e il problema è che io non sopporto perdere del tempo, non lo voglio neanche far perdere agli altri, è un problema reciproco di rispetto. Senta, a proposito di flemma, che invece a me sembra che lei vada con prudenza, saggezza, dice lei, ma insomma, quando un dirigente, faccio un esempio, di federazione è condannato per danni erariali e rimborsi debiti, deve dimettersi o no? Dal mio punto di vista si deve dimettere, ma se la legge non glielo impone io non lo posso cacciare. Fermo restando che logicamente io magari mi sarei comportato in un modo diverso. Senta, parliamo di calcio. Quello che è capitato tra Nocerino e la Salernitana, lei lo ha denunciato, ma dov'è il marcio in due parole? Il marcio è nelle tifoserie che accanto a gente normale e per bene che vuole andare allo stadio, soprattutto in certe zone d'Italia, in certe città, purtroppo si sono infiltrate persone che fanno tutto eccetto che Ecco, però tifare. quello della Lega A Pro, cascata c'è tutto il resto. ecco, ma punto, quello della Lega Pro non è un feudo del ragionier Meccali indiscusso? È stata una buona gestione fino adesso? Guardi, il No, dica presidente. sì o no. Sì, glielo dico. Il presidente Macalli indubbiamente è il dominus della Lega Pro. Peraltro, in questi giorni è stato Mi dica ricoverato. C'ho problemi. se è No, no, stata no, una no, no, buona è stato gestione. ricoverato. Quindi c'è anche un problema umano Vabbè, e molto, questo gli facciamo molto, tutti gli bravo, auguri. molto particolare. Mi sembra che non ho risparmiato assolutamente opinioni e critiche perché ho detto chiaramente che i nostri interlocutori, io le parlo come CONI, di conseguenza sono la Federazione e la Lega. La Lega organizza il campionato e la Lega si deve Cioè, assumere le non proprie potete responsabilità. fare quasi Sono stato niente, mi molto pare di chiaro. No, capire. no, si può fare, Ma però lo devono fare poco. loro. Senta, ho letto sul Fatto Quotidiano che quello della Lega Pro in realtà invece è un formidabile strumento politico di occupazione di poltrone e di creazione di consenso. È vero oppure no? È abbastanza vero. Senta, la legge obbliga le società di Serie A con la mutualità a sostenere anche i campionati minori. È una buona legge o è solo assistenzialismo superato? No, no, è una buona legge perché ad esempio noi la mutualità l'abbiamo destinata a tutte le federazioni, anche quelle diciamo così chiamate minori, Quindi è solo e buona? esclusivamente per dei progetti legati ai giovani. Senta, il calcio è anche passione. Lei è romanista, quest'anno ci spera? Sì. Quanto lo dà lo scudetto alla Roma? Lo do un po' meno della Juventus che è favorita, come il Napoli, un po' di più dell'Inter alla Fiorentina, più o meno a 3, 3 e mezzo direi. Senta, il calcio però, oltre che passione, spessissimo, purtroppo è anche corruzione e ciclicamente il fenomeno riemerge, inestirpabile. Ma guardi, ieri sera ho visto una trasmissione dove a un certo momento si parlava di formare le menti. È estremabile solo se le nuove generazioni si educano logicamente a non ragionare in Si questo passa modo. solo di lì per forza, l'educazione. Non c'è niente da fare. Senta, Soprattutto quando ci sono i soldi di mezzo. tanti in Troppi. questo. Anche il doping. In qualche sport, come per esempio nel ciclismo, sembra sempre più diffuso, addirittura a livello amatoriale. Ma è possibile combatterlo quello? È sempre la testa. Guardi, dal primo secondo ho dichiarato tolleranza zero al doping. In Italia Ma gli strumenti per fare la li tolleranza zero abbiamo, ci no, no, li sono o no? abbiamo, li stiamo utilizzando. Abbiamo adesso anche nei nuovi bilanci ulteriormente previsto di investire sui controlli. Abbiamo cambiato tutte le commissioni, tutti i responsabili di questi gruppi di lavoro, anche con È professionalità. ottimista, insomma, sulla Sono. lotta al Guardi, io doping. sono molto ottimista. Il problema è che io sono sicuro che noi il doping lo andiamo a trovare. Il problema è che non è detto che la gente non continui a farlo. Questo è un altro discorso. Questo è un Comunque altro discorso, comunque in certo. Italia stiamo molto, molto meglio che il resto del mondo, Ah sì? assolutamente. Cioè gli altri paesi il doping è molto più diffuso? Beh, più che diffuso, è sicuramente è più tollerante che non quello che sono invece le azioni che noi stiamo portando avanti. Senta, parliamo di stadi, Sì. Presidente. La Roma, come la Lazio, gioca allo Stadio Olimpico, che è vostro, che è del CONI. Ma come mai, malgrado tante promesse, se ne parla da tanti anni, Roma non si è mai dotata di uno stadio moderno? Perché qui dipende né più né meno di un, Cioè, qual è di una l'ostacolo? Qual è responsabilità che c'è tra l'ostacolo? l'imprenditore privato, in questo caso i proprietari, gli azionisti delle due società, e la, chiamiamola, la poca collaborazione da parte delle amministrazioni comunali. Cioè, Nel, l'ostacolo sta nella mancanza di l'ostacolo è che volontà o l'imprenditore nel... da solo evidentemente non Non ce la può? fa o non riesce e l'amministrazione comunale non li ha mai messi Non è veramente in interessata. condizioni. No, sai, la parola Vabbè, mi interessa. insomma, Diciamo che dato che non si fa... nessuno dei due ha fatto veramente, perché normalmente queste cose non accadono, veramente tutto affinché logicamente il nuovo stadio si realizzasse. Ecco, Adesso sembra che le intenzioni sono finalmente di andare a Dama. vabbè, sembra, l'abbiamo sentito tante Lo so, volte, ma ma io le dico. il CONI sarebbe favorevole o Ma no? sono strafavorevole. Guardi, io dal Strafavorevole. primo giorno, scusi, visto che lei ha usato la parola moral suasion in questi 9 mesi, se le racconto le volte sono stato a parlare con chi si deve occupare di questo tema e quindi l'apparato legislativo Vabbè, dei nuovi stadi. sono ancora un po' sordi. Beh, però, insomma, dopo la dichiarazione di Enrico Letta, credo che siamo proprio in dirittura Ci d'arrivo. arriviamo. Senta, però il CONI ha un contratto fino al 2015 d'affitto alle squadre per 2 milioni 800 mila euro l'anno. Quindi in realtà voi pigliate soldi, non è che vi conviene tanto fare Ma uno no, stadio guardi, nuovo. non rientra proprio nella mia mentalità. Poi, scusi, No, lo Stadio Olimpico abbiamo deve una finale della Coppa Italia, il Golden Gala, il 6 nazioni di rugby, dei concerti l'estate Quindi rende strepitosi. moltissimo. Ma rende è una parola impropria. No, sicuramente, cioè, sicuramente non ci strappiamo i capelli aggiuntivi. Sì, sì, mi perdoni. Sicuramente non ci strappiamo la testa se dovessero andare a giocare la Roma e la Lazio, come io spero è giusto che fosse il prima possibile. Senta, però per ora solo la Juve del tanto criticato Giraudo è riuscita a farsi uno stadio moderno di proprietà che offre servizi, rende invece che costare. Perché solo la Juve? Perché società in questo senso illuminata, e soprattutto però bisogna riconoscere ha utilizzato una congiuntura strafavorevole, e cioè uno stadio che era il precedente delle Alpi, che è in una zona senza vincoli, che è stato permesso di buttare giù, ricreare, e soprattutto, scusi se glielo dico, l'altra squadra della città, perché sennò questo non sarebbe potuto avvenire, certo, che ha usufruito di un nuovo stadio realizzato ex novo praticamente per le Olimpiadi del 2006, e che gli ha permesso l'ex comunale di avere la loro casa. A Roma, se questa cosa la facesse una delle due, l'altra doveva giocare? Sì. Senta, comunque sono stati bravi, e comunque non è l'unico, perché l'altro è anche Udine, adesso avrà bene, il nuovo stadio. Viva Udine, allora. Comunque la strada è questa, il gap tra Italia e in Europa infatti è quello degli stadi. Il declino del calcio è assicurato se non ci saranno gli stadi. Ci sarà la legge? Se tutto va bene, entro la fine della prossima settimana dovremmo avere questo testo che, ripeto, non regala niente a nessuno, ma facilita molto l'aspetto amministrativo e giuridico per la realizzazione dei nuovi impianti. Mi perdoni, che non è la legge degli stadi, è degli impianti. Tant'è vero che noi abbiamo imposto un vincolo di 500 persone che servirà soprattutto all'utilizzo di tutte le altre discipline che non sono il calcio. Presidente, lei sta dicendo che nella legge di stabilità entrerà un codicillo che farà fare gli stadi. Ha concordato questo con Letta? Beh, si è impegnato il Consiglio nazionale. Sì, si è impegnato lui. Questa è la notizia. Si è impegnato. Si è impegnato. Va bene. Ci saranno gli stadi e gli annessi e connessi, perché Letta ha detto che ci saranno. Sì. Entrerà nella legge. Senta, quindi non è importante che lo dica Giovanni Malogo, ma l'abbia detto Enrico Letta. No, è certo. Sì, che l'avete detto insieme, credo. Sì, sì. Senta, contro la violenza, il razzismo degli ultra delle varie squadre, al di là della retorica, che cosa si può fare? Perché tutti condannano, poi ricominciano. Ma guardi, anche qui il discorso è che non si può fare discriminazione nella discriminazione. Abbiamo cominciato logicamente con il razzismo, adesso si è andati a finire addirittura con la territorialità degli insulti e quant'altro. Io credo che 1, 2, 3, 5 punizioni la gente a questo punto poi comincia. Ecco, nel calcio professionale a livello globale sta cambiando tutto. I diritti TV sono i padroni del vapore, dettano le regole, sono regole che fanno bene al calcio, sì o no? Beh, è indispensabile regolarle. Ho qualche dubbio di come sono regolate adesso, se non le ho messe nel modo migliore. Non va bene così. Ecco, dopo i Sensi a Roma anche Moratti lascia l'Inter. È il segno che la globalizzazione definitiva del calcio al vertice è avvenuta? Sta avvenendo. E quindi si arriverà a una Superlega europea per grandi club? Guardi, non mi sento di escluderlo, però non è una cosa così proprio all'ordine del giorno. E vai con Andreotti, mi sembra. Ho capito, insomma, ma io devo dire quello abbastanza che penso. Okay. Fra qualche anno è possibile. Oggi ci sarà molto probabilmente la Lega, la Superlega per i grandi club. Senta, come presidente. Ma lei vuole che risponda in un modo falso? No, io dico vero, la verità. Ok, vero, e quindi però, io insomma, dico le cose come stanno, certo, almeno dal mio punto di vista. Ma senta, come presidente della Niene, lei è anche patron della grande Federica Pellegrini. Che tipo è, in due parole? È veramente un... Che tipo è? Beh, è un fuoriclasse. No, quello sì, ma io chiedevo... È un fuoriclasse, che la è un bene. Tipo molto particolare, bisogna conoscerla, è difficile spiegarla in così poche parole, però insomma le voglio dire che anche, diciamo, fuori dalla vasca, dalle piscine, ecco, è un tipo veramente... Notevole. Beh, più unico che raro, ecco. Tutti i sensi, questo è interessante. Senta, la sua presenza continua sulla ribalta mediatica della Pellegrini, è qualcosa di cercato o di subito? Ma in parte tutte cercato, in parte subito. Le voglio dire, guardi, che Federica, ad esempio, negli ultimi mesi, tutto si può dire, eccetto che è stata la ribalta, anzi... Negli ultimi mesi, esatto. Eccezionalmente e no. Lei deve proprio quasi fare un secondo mestiere per non stare alla ribalta, considerando com'è, tra virgolette, diciamo, seguita in certi momenti, anche braccata. E influisce sui suoi risultati, secondo lei? Questo, nel modo più assoluto, glielo dico con certezza e cognizione di causa. Non ultimo, scusi, quando stava, diciamo, proprio sulla cresta dell'attenzione dei media... Ha stampato quell'1,55,1 che erano anni che non notava sui 200 stile libri, e questo le dice tutto. Quindi secondo lei non ha raggiunto ancora il suo top? Ma guardi, da Federica mi aspetto di tutto. Di tutto. Sì. diventi campione mondiale di box, non so, una cosa, qualunque cosa. Quello no, però se Federica, per la testa che c'ha, per la volontà, l'abnegazione che mette quando si impegna in una cosa, può veramente essere capace di tutto. Senta, qual è la però io mi riferivo al nuoto. Sì, no, certo, l'ho capito, l'ho capito. Senta, ma qual è la disciplina che vede in crescita di talenti e di risultati? Di più. Il beach volley. Sono beach volley. Sì, uomini e donne, sono molto fiducioso per Rio de Janeiro. Golf no? Il golf, scusi se lo dico, oramai non è più neanche una novità, perché okay, abbiamo certo. I due Molinari e Manassero, più un gruppo, Pavan, eccetera, che stanno venendo fuori, le ragazze. Abbiamo belle speranze lì. Sì. Senta, ma gli atleti non sono troppo lontani dal posto di comando, da dove si gestiscono in realtà le loro carriere? Ma nel Consiglio Nazionale c'è una rappresentanza formidabile, sono 9 più 4 tecnici. Io credo che questa domanda la può fare a tutti, eccetto che non a me, perché guarda, le dico perché è sportivo, se c'è no, ma se c'è proprio un modo che mi viene riconosciuto di interpretare il mio ruolo, no, ma io parlo in un modo diverso, dato che ma io oramai che piano piano li sto sdoganando dappertutto e soprattutto cioè nelle redazioni, nelle nelle federazioni, gli sportivi, se lei si informa, vedrà che ci sono dei notevoli segnali in questo senso. Ho studiato per prepararmi. Esatto, senta, lei è anche un grande, l'abbiamo detto in presentazione, un grande appassionato di calcetto a 5. Gioca sempre? Gioco sempre, però mi sono di nuovo rotto i legamenti, per cui è l'ennesimo tributo. Quando che ho... è che lo capirà che non si può giocare a una certa età? Spero mai. Continua a romperli, sì, va certo. Bene. Ok. Senta, è vero che il suo circolo, Aniene, di cui è presidente, è solo un circolo solo per uomini? No, non è affatto vero, anzi, se lei viene troverà certi orari, soprattutto nelle scuole di sport, più donne che uomini. Lo statuto dal 1892 impone... Dico, una donna può diventare lei mi fa socia. La domanda e devo rispondere. Ecco, appunto. Okay. Impone che ci siano solo persone di sesso maschile, con una piccola eccezione. Maschi, sì, diciamo, con una piccola eccezione, che se lei fa sport a certi livelli, che è donna, non solo diventa socia, ma lo diventa tutta la vita gratis. Ah, e questo... cioè solo le donne super sportive acquisite. No, a noi ci interessa sono quelle che fanno sport e non di così è impossibile. No, beh, l'opposto. Guardi, posso garantire che con questa forma le donne sono contente e gli uomini che sono soci altrettanto. Ah, va bene, quindi non c'è anacronismo, lei dice. Senta, e faccio un'ultima domanda. Se sognasse di aver vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi, in che specialità avrebbe voluto vincerla? Ah, guardi, glielo dico subito, 400 metri. Ero innamorato di quanto regna e perché quello era il sogno. Beh, una gara che è un incrocio tra la velocità pura e il mezzo fondo, in cui tu devi dare tutto col cuore in gola, e soprattutto c'è l'intero giro di pista, c'è la curva, il doppio rettilineo, insomma. Meraviglioso. Sì. Beh, è la vita. Grazie Presidente, grazie mille. Ecco, ringrazio. Sono le 9:34 minuti e 05 secondi. Dopo la pubblicità torniamo in diretta per commentare che cosa bolle in pentola in Italia e nel mondo con Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi. Vi ricordo il numero 800 24 00 24, numero di SMS 349 238 6666. Mix 24. Mario Secchi, che titolo faresti l'intervista di Malagò? Il Velociraptor. Il Velociraptor. Ammazza. È uno sveglissimo. Accidenti. Svelto. E tu, Pietrangelo? La legge di stabilità negli stadi. E quanto è didascalico. Perfetto. Sigla, cosa bolle in pentola? Giovanni, allora? Ma vuoi andare ad Antigua tu? Io ci sono andato. È Tropicana, no? È capitato. È Tropicana perché il Cavaliere vuole andare là. Al Corriere della Sera. Però non ha il passaporto. Così ha detto. Se avessi il passaporto andrei là. Capisci che... È la dimostrazione che è già prigioniero. È prigioniero libero però, perché ricordati sempre che c'è questa non definizione. Non vendiamo la pelle dell'orso prima di averla, io non lo so, ma Berlusconi... Domani. Perché Alfano gli ha ritirato il passaporto. È solo realismo il mio. Veramente la magistratura che gli ha ritirato, non Alfano, non far così Buttafuoco. Sentite un po', ma io leggevo oggi un po' i giornali e mi chiedevo, ma la ripresa dov'è? Stamattina nella prima pagina del Financial Times, e mi fido abbastanza, in Europa è sparita. In Giappone è controversa. E sai dove sta? Dove sta? In America. Vai, boss. Anche questa volta. Anche questa volta in America, perché c'è la Fed, perché gli americani sono più svelti a uscire sempre dalle crisi che loro stessi creano. È 1.200.000 posti di lavoro nell'ultimo anno creato in America. Sì. Il PIL va. Bisogna vedere quanto dura. Ovviamente la Fed continuerà a sostenere una politica, diciamo, di tipo espansivo dell'economia. Segnalo che Moody's ha fatto il downgrade per 4 banche americane: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, la Bank of New York, Mellon Corporation. Naturalmente non c'è da allarmarsi, almeno per ora, e non dovrebbero scattare aiuti. E dopodiché, questo piace a Buttafuoco. Roba di buttafuoco questa. Sì, diciamo è in aria buttafuochesca, nel senso che l'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, segnala che Teheran ha rallentato il suo programma nucleare. Questo è importante perché incoraggia la trattativa con l'Iran. Ne parleremo nelle prossime puntate. Esatto, è uno dei temi di questi tempi, della contemporaneità. Quindi, diciamo, è da seguire con molta attenzione. I segnali incoraggianti ci sono che tutti, nonostante la Francia. È perché c'è una richiesta ben precisa che deriva dallo scacchiere internazionale, perché l'area geopolitica continentale eurasiatica è diventata sempre più, oltre che una realtà politica, una realtà economica, e quindi lo esige la realtà. In cioè, punto un libro stampato oggi. Ma hai visto come è didascalico? Perfetto. Non lo riconosco quasi. Hai dormito bene? No, sei sicuro? Cioè, andiamo a scuola. Benissimo, poi c'è c'è la serenità persiana. Mamma mia, appassionati di videogiochi! È il vostro giorno. Che cos'è questo, Minori? Tu lo sai. Che cos'è? Super Mario. Certo. Super Mario, che gira anche ovviamente sulla nuova PlayStation 4 che comincia. La PlayStation 4 comincia oggi ad essere in vendita sul mercato, ed è, come sai, un evento per milioni e milioni di appassionati. Tu giochi a PlayStation? No, io guarda, sono fermo a... Petrangelo gioca soltanto con Twitter. Io sono fermo a Space Invader, ti dico solo questo. E per finire ti segnalo che in Francia si gioca, parliamo di calcio. Tiriamo un sospiro di sollievo, i miliardari del football transalpino non si rivolteranno contro Hollande. Peccato, e allora? Ne rompe a ca, ne rompe a ca. Ne rompe a ca. Gigi Proietti. Sentilo. Chi ma roterca, chi ma roterca, chi ma roterca. Un maestro, sì. Fantastico. Un artista straordinario. E tu è uscita la sua biografia proprio ieri oppure oggi. Ieri e oggi comunque è in libreria il Proietti con un'autobiografia dove c'è un racconto straordinario. Quando lui viene proprio investito dal grande successo, con la gente che fa delle file chilometriche, sua madre va a visitarlo in camerino e lui dice: sei soddisfatta? Ma lo stipendio te lo danno? Dovresti invitarlo per un faccia a faccia. Sicuro. E tu, Minori. Salamini, Pietrangelo oggi? È sempre in ambito Proietti, questi sono i Salamini, oltretutto interpretati da Gigi Proietti, i Salamini di Ettore Petrolini. E io sono stato, tu dici che io ci gioco con Twitter, però da Twitter arrivano delle notizie straordinarie. Per carità, non mi permetterei, Giovanni, mai di criticarlo. Perché poi siamo costretti a mescolare alto, basso, basso, alto, perché ieri Fabio... No, li confondo, Fabio Volo, stavo dicendo sì, Fabio Fazio. Fabio Volo. Perché faccio sempre questa confusione, alto-basso, quindi Fabio Volo annuncia soddisfatto ieri di aver consegnato il suo primo pezzo che uscirà domenica nella sezione culturale del Corriere della Sera. La notizia è bellissima, anche perché Mario lo sa bene, quelle furono le pagine di Montale, di De Benedetti, insomma di un sacco di gente. Insomma, è una cosa giustissima mescolare l'alto basso, anche perché adesso c'è questa straordinaria trasmissione di Rai 3 Masterpiece, che è una sorta di littoriali organizzati dall'ideologicamente corretto, e allora in omaggio all'alto basso, sì, ascoltate. Pronto? Che stai facendo? Sei come Sanaka. Che cosa sei? Un moscio. Hai uno scopo? No, la scopa no. Dove ti trovi? Na cucina. E come vi? Gio. Ma niente, così. Di dove sei? Gio. Bravo. Guarda Pietrangelo, Domenico siciliano di Udine dice: Pietrangelo, dimmi, santo subito. Santo subito. E invece Loris ci dice: buffoni, vetero buffoni. Vetero buffoni, cioè, senti, diciamo... qua, posso dartene un'altra? Senti chi ride? Sai chi è questo? È Renzi che ha detto a D'Alema: ride bene chi ride ultimo prima del congresso. Sì, buffoni. Proviamo a parlare di tutto in modo anche leggero. Certo. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, il numero dell'SMS 349 238 6666, sono le 9:47 e 20 secondi. Abbiamo il telefono, professor Simonelli, professor Simonelli della Cattolica, storico della televisione. Professore, dov'era il canone ieri sera? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Era almeno in due luoghi. Intanto nell'8:30 di Lilli Gruber di ieri sera, perché era un 8:30 un po' particolare, dove c'erano due persone, Michele Serra e Scanzi, che invece che confrontarsi, come sempre succede nei talk, sull'IMU, su queste cose che poi non portano a nulla, conversavano amabilmente, con una certa pacatezza e tranquillità, su un tema che francamente non mi entusiasma, che è quello delle generazioni, ma che consentiva loro di dire delle cose intelligenti, di una certa profondità, articolando i discorsi, facendo riferimento anche alle loro esperienze personali. E questo mi ha ricordato veramente l'origine del talk, perché il talk in Italia nasce così, nasce con Bontaloro di Maurizio Costanzo, quando persone di origine, di formazione diversa, anche di ruolo diverso, conversavano attorno a un tema. Ecco, questo mi sembra un esempio di canone di servizio pubblico, cioè un talk in cui... Una modalità di tornare alle radici in qualche modo. Mi sembra che 8:30 lo faccia talvolta. La Gruber è brava, sì. Perché, ecco, già qualche giorno fa, se ricordo bene, domenica scorsa, sabato scorso, c'erano Vauro e Severnini a parlare di cose abbastanza simili, dei giovani, sa? Ecco, però. E poi un altro canone? E poi una cosa che a lei piacerà molto, circola su Sky Sport un, chiamiamo documentario, una lezione di storia della storia di Platini. Ah, fantastico. Fatta da Federico Buffa, è un'occasione non televisiva, è la consegna del premio Lidl, la famiglia Lidl ha istituito un premio che si consegna a uno sportivo, a un calciatore, o un ex calciatore, in questo caso un dirigente sportivo, Michel Platini. Beh, una fantastico. Lezione, fantastico, una lezione di storia straordinaria, perché nei programmi di storia noi spesso vediamo sempre le stesse immagini, specialmente le certo, immagini sportive. Certo. Invece lì hanno pescato bene nel repertorio. Si vedeva una finale degli anni 80, una finale di Coppa di Francia tra Nancy e Nizza. Si vedeva Platini giovane, una lezione non so. Insomma, è rimasto solo sfide da noi a fare questo tipo di lavoro con grande qualità. Alla RAI. Ogni tanto mi scappa. Federico Buffa, e soprattutto questa ricerca straordinaria di immagini, non solo una storia, ma una lezione di storia per chi vuol fare programmi di storia partendo dallo sport. Lì c'era un esempio di canone. Prima di tutto nella ricerca, perché per fare programmi originali bisogna cercare, lei lo sa bene, immagini originali, certo. Se no è sempre la stessa zuppa. Professore, aumentano i fans di Pietrangelo, Pietrangelo mitico, da Pietro, Palermo milanese. Guarda che li sta contattando via SMS. Lo so, ma loro reagiscono, ecco, grazie professore. Questo è l'ultimo fine settimana dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film. Marco Müller, direttore artistico del Festival, qual è l'identità di questa edizione? Ringraziamo il cielo, è un'identità in movimento, perché per inventare un macro evento di cinema e oltre il cinema, per una città grande, calorosa, stimolante ma anche molto complicata come Roma, c'è bisogno in qualche modo di definire ogni anno quali possono essere le coordinate sulla base dei risultati dell'anno precedente e anche di quello che non ha funzionato. E quest'anno le coordinate? Le coordinate non potevano che essere coordinate fratte al punto di diventare quasi contraddittorie, cioè riuscire a far stare insieme degli elementi forti, facilmente riconoscibili, immediatamente appetibili di festa e dargli in più un tocco festival, il prestigio naturalmente di essere uno dei luoghi dove si scoprono delle nuove opere e dei nuovi autori. Ecco, ma nel concreto, diciamo, l'affluenza ti ha soddisfatto? Addirittura la crema di Hollywood, la presidentessa della Warner, Megan Ellison, la nuova grande produttrice, dicevano: beh, noi una proiezione così non l'abbiamo mai vista. La Sala Santa Cecilia piena con 2000 persone. E quindi grandissima, diciamo, una grandissima soddisfazione, a parte la bravura della selezione, quindi la voglia di cinema c'è. La voglia di cinema c'è e credo che mi stanno proprio adesso dando una notizia pazzesca che sono stati trovati degli accrediti falsificati. Quindi beh, fantastico, come all'Atac, cioè praticamente come i biglietti. Assolutamente come all'Atac, ma insomma del nostro fantastico. Piccolo facciamo gli accrediti falsificati è una notizia per davvero. Ecco, li hai scelti tutti, ma no, quindi la domanda che ti sto per fare non ha senso, però te la faccio lo stesso, ma ce n'è uno un po' preferito? Sì, certo, ovviamente. Il mio film preferito, ce lo dici alla fine, non adesso. È un film sulle orme del quale mi sono messo 15 anni fa, quando finalmente la produzione doveva partire. Si chiama È difficile essere uomo, è l'adattamento di uno straordinario romanzo utopico, anzi per meglio dire distopico, di fantascienza dei fratelli Strugatsky, quelli di Stalker per intenderci, l'ha realizzata Alessei German. Senti, ma essere internazionali e locali, come deve essere un festival come questo, che cosa vuol dire in due parole? Vuol dire che ci sono degli anni fortunati e degli anni meno, vuol dire che ci sono degli anni in cui il cinema italiano riesce in qualche modo a riprendere slancio, non soltanto ripercorrendo piste già familiari, il cinema di genere per esempio, ma al tempo stesso vuol dire anche un anno in cui la forza viene rimessa in questione il comune senso, ecco, del reale, così come lo reinterpretano i nuovi documentaristi. Ecco, parlando di documentari, hanno vinto a Venezia, c'è possibilità che vincono anche a Roma? Vabbè che c'è una sezione apposta, ma insomma... Certo, appunto per questo, posso garantire... Per non rischiare di metterli in concorrenza con i tuoi film, insomma. No, ci sono parecchi film. Perché oramai ci sono documentari davvero stupendi. Ma come diceva un grande cineasta indiano presentando il suo film, io ho sempre voluto girare i miei documentari come se fossero un lungometraggio di fiction e quelli di fiction come se fossero un documentario. Ecco, ti faccio, e questo esiste. Ti faccio un'ultima domanda un po' provocatoria. In Spagna per 3 settimane di fila c'è il Film e Cook, dedicato a tutto quello che dalla cucina arriva sul grande schermo. Ecco, noi che abbiamo nella cucina la nostra specificità, Roma niente? Non c'è niente in quella direzione? Ma sono anni che soprattutto dall'Asia mi chiedono: ma ci sono dei film importanti italiani sulla cucina? A me era venuta molta voglia di fare anche qui, anche a Roma, non ci sei riuscito. Su Culinary Cinema, solo non che ancora. Arrivando in novembre ormai già le fanno molto bene. Le hanno a già fatte da Berlino, tutte. 6 festival. Ecco, senti, l'ultimissima cosa, rimpianti di Venezia? Nessuno quando Roma non è umida. Cioè quando non assomiglia a Venezia. Quando non assomiglia a Venezia e quando non c'è quel pantano dove... Parlavi di politica, ho capito, non di anche clima. Di politica, va bene. Anche di politica. D'accordo, grazie, tanti auguri e complimenti. A voi buone visioni. Tra poco nella storia, dopo il giornale radio, raccontiamo curata da Marina Milone, la storia, l'avventura di Achille Lauro, a seguire un'intervista col direttore del Corriere del Mezzogiorno, Marco De Marco.